L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddei e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24 con il nostro appuntamento settimanale dedicato all'Europa. Tanti punti di vista, tante notizie, tante sfaccettature, tanti approfondimenti. Seguiteci sulle nostre pagine in Facebook, facebook.com/l'altra Europa, oppure su Twitter, l'account, il mio personale, chiocciola Federico Taddei, l'hashtag è ovviamente l'altra Europa, piazze virtuali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Anche oggi un lungo viaggio, tanti approfondimenti e tante sfumature. Partiamo proprio da una sfumatura e andiamo nel cuore di Copenaghen. I har troet med våben, I har prøvet at stoppe jeres egne barns råben. Quello che state ascoltando è l'inno di Christiania, questo quartiere, questa enclave fondata nel 1971, quando un gruppo di hippie ha occupato una base navale dismessa alle porte della capitale danese, costituita da edifici militari abbandonati. E per tanti anni è stato un quartiere caratteristico con proprie leggi, proprie regole, sempre al confine tra legalità e illegalità. E questo ha portato anche a un lungo, lunghissimo confronto e anche scontro con quello che era l'ordinamento, con quelle che erano anche le forze dell'ordine, con quella che era l'amministrazione della città. E nel 2011 gli abitanti hanno comprato il terreno dallo Stato per diversi milioni di euro. Ora però quello che succede che dopo 41 anni il governo danese pone fine allo statuto speciale di Christiania e ha imposto ai circa 1000 abitanti del quartiere l'ordinamento giuridico danese. Per capire quello che sta succedendo, per capire anche quelle che sono state le reazioni, abbiamo con noi una abitante, un'amica dell'Altra Europa, vive nella comunità di Christiania. Diamo il benvenuto e il ben tornata all'Altra Europa, Sirkelin Christensen. Ciao Sirkelin. Ciao. Ciao, buona giornata, ben ritrovata. Come stai? Sto abbastanza bene, sono un po' raffreddata, però sto bene. Mi fa piacere. Allora, Sirkelin, cosa sta succedendo a Christiania in questi giorni, in queste ore? Sì? Adesso abbiamo letto e filmato questo contratto, abbiamo comprato Christiania. E poi il governo ci ha proposto qui il 21 dicembre tutte le regole, tutte le cose che dovevamo cambiare. Tutte queste cose si chiama d'accordo, si può chiamare numero 5, cioè Outsider numero 7. Ok. E in questa d'accordo ci sono scritte tutte le cose che devono essere cambiate, si parla di la natura qui intorno a Christiania deve essere meno selvaggia e questa è una base militare, sì, originalmente, e vogliono portare il posto come lo vogliono, che lo facciamo ricordare più possibile come era una volta. Che vuol dire che dobbiamo togliere gli alberi e tutte, non lo so come si chiamano, gli alberi molto bassi. Sì, le siepi, la vegetazione, sì, in generale, certo, perché si vuole, sì, ripristinare quello che è considerato un po' una sorta di patrimonio artistico passato e culturale, certo, sì, del passato. Però in questo modo va via tutto quella caratteristico di Christiania. Certo, che certo, per noi è un po' stupida, perché deve sembrare essere lo stesso come era nel 1800 e non come da quando Travestiania ha iniziato a vivere. Certo, leggevo anche che vi imporranno di mettere i lampioni nelle strade. Sì, è un'altra cosa che per me è assurdo, che qui di notte è molto bella proprio perché non c'è la luce di strada, vediamo tutte le stelle, ha il suo fascino e poi io mi sento sicura sulle strade e non ci sono problemi in quel senso. Cichelin, ma oggi Christiania, che è conosciuta come un quartiere delle libere arti, ma anche molto libertino, insomma, con poche regole, questa è un po' l'immagine che c'è da fuori all'esterno. In verità, che cos'è oggi Christiania? Christiania è un posto turistico, direi. Ci sono tantissima gente, ci sono di tutti i tipi di gente, di tanti paesi diversi, è un posto pieno di cultura, come hai detto tu stesso, di arte, è molto caratteristico e per le regole, certo che abbiamo regole, ci rispettiamo a vicenda e la cosa che potrei sembrare che forse non abbiamo regole è che c'è ancora Pusher Street dove vendono il fumo, è molto frequentato e io come una che vivo qua, io non vedo quella parte di Christiania come la vera Christiania e io credo che è molto per quella che non è accettato dall'esterno. Ma il tuo timore reale è quello di diventare unicamente un'attrazione turistica? Sì, un po'. Uh-huh. In queste nuove regole che dobbiamo seguire, adesso è normalizzato qua, non possiamo sì. costruire come vogliamo e dobbiamo seguire le regole che c'è nella società, che comunque va bene, mi dispiace un po' perché qui c'era un'ideologia, c'era un sogno di costruire qualcosa che era comunque diverso, che comunque non doveva essere pericoloso, non vogliamo costruire case che crollano o che le gente bruciano vivo dentro, certo. Non è per questo. Però che cosa stavo dicendo? No, però appunto, ho capito, hai paura che diventi solo un'attrazione turistica, quindi un qualcosa da conservare a misura di turisti che vengono a vedere queste strane persone che vivono ancora un po' nello spirito hippie. Sì, e poi c'era l'altra cosa che viene molto sottolineato in questa nuova regola che dobbiamo seguire, che è un posto pubblico. Mm-hmm. Che Christiania è sempre stato un posto pubblico, tutti sono benvenuti, però il governo vuole ulteriormente che tutto il terreno, tutte le case, tutte le strade devono essere pubbliche, perciò tutte le strade devono essere rifatte, alcune parti devono essere asfaltate, devono essere messe lampioni e grandi scritti dove c'è scritto pubblico dove puoi venire qui a camminare a vedere. E in quel senso diventerà tipo sì, un museo fatto certo. per bene dove tutti possono entrare a vedere certo. che anche quello non è tanto bello, diventa molto rigida tutta questa naturalezza, tutta questa sì, libertà di costruire, di essere sarà un po' costruita mm-hmm. e non più libera come prima, però un bene c'è e che tutte queste regole devono essere compiuti solo nel 2022. Ok, quindi c'è tempo, dai. Cichelin, grazie davvero come sempre per averci raccontato e averci dato una fotografia di Christiania, com'è e come sta diventando. Ciao e buon sabato. Anche a voi. Grazie, ciao. Ciao. L'altra Europa. Cada vez, más gente de la que imaginas necesita ayuda en nuestro país. Colabora con Cruz Roja. Ahora más que nunca. Ora più che mai, questo era uno spot che ha fatto molto discutere, lanciato dalla Croce Rossa Spagnola. Un frigorifero vuoto, una sola frittata. Questo papà apre il frigorifero, trova solo un uovo, fa una frittata e questa frittata sotto gli occhi interrogativi e preoccupati dei figli viene divisa nei tanti piatti sul tavolo. Uno spot shock che la Croce Rossa Spagnola ha lanciato per segnalare l'iniziativa di raccolta fondi, raccolta materiali, ma per la prima volta questa raccolta era destinata agli stessi abitanti spagnoli, quindi non agli immigrati, non alle fasce più povere, più disagiate, ma a famiglie della classe media, un indice del disastro spagnolo, ma che poi è quello greco, ma che poi è quello cipriota, ma che poi è un segnale di quello che sta accadendo. E abbiamo con noi proprio il presidente della Croce Rossa Italiana e membro del consiglio direttivo della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Francesco Rocca, perché la loro attività è uno specchio reale, uno specchio sincero di quella che è la crisi europea oggi. Buongiorno Francesco, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, buongiorno. Il vostro, ahimè, è un osservatorio privilegiato, perché voi veramente vedete quello che succede nella strada, quello che succede nelle famiglie europee. È possibile fare un'analisi di quello che sta accadendo, di quella che è la situazione reale? Beh, l'analisi di quello che è il nostro osservatorio è che negli ultimi anni il bisogno è aumentato enormemente. Siamo come assistiti direttamente dalla Croce Rossa a livello europeo, siamo passati da 4 milioni a 6 milioni di persone, quindi insomma è un numero imponente, se ci pensiamo è aumentato quasi del 50% in 3 anni, dal 2009 al 2012, cioè gli anni della crisi. Adesso ovviamente ci prepariamo a un 2013 che stiamo affrontando ancora più difficile. 33 milioni di chilogrammi di cibo erogati nel 2012 in Spagna, la Spagna che è entrata nella classifica dei nuovi paesi poveri di fatto, ma campagne simili sono presenti anche in altre nazioni, e leggevo di nuove campagne in paesi insospettabili, dove per esempio in Francia la Croce Rossa ha attivato una campagna contro l'esclusione bancaria, campagna simile che, se ho ben capito, sta per partire anche in Italia. Di cosa si tratta? Ma si tratta praticamente della difficoltà che hanno tutte le popolazioni fragili ad avere l'accesso al credito, e questo li fa entrare in spirali quali l'usura, l'estrema povertà, e quindi francese insieme alla Caritas francese hanno lanciato questa campagna molto forte. Noi a fine mese anche la lanceremo qui in Italia, perché serve un'attenzione maggiore da parte degli istituti finanziari rispetto a condizioni di accesso al credito, a una cultura della finanziaria che si trova in momenti di difficoltà, ovviamente accompagnandolo. Su questo non è che si pensa che gli istituti di credito siano istituti di beneficenza, però ci sono degli strumenti con cui si possono accompagnare persone che si trovano in situazioni di momentanea difficoltà ed evitare che possano entrare nel circuito della povertà e dell'indigenza. Se lei pensa che in Italia il numero dei padri separati che il circuito di senza fissa dimora è aumentato di migliaia di unità, questo è un indice importante. Certo, con altre variabili, anche queste drammatiche, che entrano in gioco, la Grecia, che è indicata un po' dagli esperti come un paese laboratorio dove forse, ahimè, vengono anticipate quelle che sono anche le conseguenze di questa crisi. In Grecia c'è un forte aumento di casi di AIDS, c'è un forte aumento di suicidio, c'è un forte aumento di ritorno di malattie come la malaria, ma nella stessa Italia, un dato di questi giorni, oltre 9 milioni di persone stanno rinunciando a curarsi per la mancanza di risorse, e c'è un aumento vertiginoso di uso di antidepressivi. Come fate voi come Croce Rossa a essere pronti, a essere attivi in tutte queste direzioni? Con che spirito vi state muovendo? Quello di chi cerca di mettere una toppa ovunque? Immagino che ci sia anche c'è il rischio di scivolare nella rassegnazione. No, nella rassegnazione mai. No? La ricchezza della Croce Rossa è quella di avere una comunità di volontari molto, molto forte, molto coesa, e che lavora all'interno della comunità, che quindi cerca di leggere i bisogni delle comunità. Quindi la rassegnazione no, semmai si tratta di cercare di attivare i circuiti di fiducia, ma il problema è che nei momenti di crisi ovviamente diminuisce la presenza dei donatori e diminuiscono anche le donazioni. Questa è la nostra preoccupazione: aumenta il bisogno, aumentano tutti quei fattori di rischio connessi alla povertà che lei ha appena citato, e però non si può sempre far fronte a tutti i bisogni enormi dei nostri volontari impegnati nella distribuzione dei viveri o nell'assistenza alle famiglie indigenti. Noi assistiamo circa 600.000 persone soltanto in Italia, si trovano a dover affrontare sempre più richieste e ovviamente non sempre riescono ad affrontare tutto, però la rassegnazione quella mai, semmai si attrezza, si sta lavorando, e questo in tutta Europa, c'è un circuito, c'è un network di società nazionali, lei pensi che adesso sono 24 le società nazionali a livello europeo che lavorano su questo settore, sono impegnate proprio a dare risposte a chi si trova in difficoltà, ma la rassegnazione questa mai. Abbiamo parlato della Spagna, dove viene fornito anche un aiuto monetario a chi non può pagare le semplici bollette, e interventi fortissimi e massicci anche in Romania, dove il 14% della popolazione vive in povertà assoluta. Il direttore generale della Croce Rossa Internazionale, D'Accord, ha detto: una cosa del genere non si vedeva dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Rocca, ma vedete anche qualche segnale di ripresa? Se devo essere sincero, al momento no. Al momento la situazione, siamo proprio nel pieno degli effetti della crisi. A noi gli indicatori che arrivano dagli istituti internazionali oggettivamente interessano poco, se non come elemento di speranza, ma nel calarsi nel concreto, nel quotidiano, sicuramente vediamo soltanto una grandissima difficoltà e una crisi enorme su cui stiamo cercando di attrezzarci nel migliore dei modi. Lei pensi che la Croce Rossa Spagnola assiste circa 1.200.000 persone e arriverà a 1.500.000 per la fine del 2013. Questa è la necessità anche di quella campagna shock che lei ha citato in apertura. È uno dei motivi, cercare di sensibilizzare davanti a chi all'improvviso trovarsi in una condizione di difficoltà. La cosa che sta accadendo in Spagna, come in Francia, come in Italia, come nei paesi più sviluppati, è proprio quella della piccola borghesia che scivola senza accorgersi in una condizione di povertà. Questo è uno degli effetti drammatici di chi pensava comunque di avere delle piccole certezze che all'improvviso vengono a mancare. Questo crea anche un disorientamento psicologico forte, posso aggiungere agli effetti della crisi anche quello, ahimè, noto dei suicidi, certo, e comunque dell'aspetto psichiatrico, cioè un sistema proprio forte che c'è in queste situazioni di crisi. Se lei mi lascia fare un paragone forte, è simile a quello che c'è in un dopo terremoto, cioè dove c'è una situazione di crisi forte, quindi questi sono aspetti molto molto catastrofici, e per questo anche a livello di comitato internazionale si sta attivando un circuito, un network di sostegno. Grazie davvero a Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana. Ricordiamo il sito per tutte le informazioni, che è www.cri.it. Rocca, grazie davvero, in bocca al lupo a lei e a tutto il suo numeroso team e ai tanti volontari della Croce Rossa Italiana, che sono la vera forza del vostro movimento e del vostro operato. Buona Pasqua. Grazie anche a voi, buongiorno a tutti. Adesso un Europost-it, un po' di pubblicità, poi torniamo qua in diretta con l'altra Europa. Europost-it. Desire for Freedom, l'arte in Europa dal 1945 ad oggi. Il Palazzo Reale di Milano presenta una grande mostra collettiva proveniente dal Deutsches Historisches Museum di Berlino, che racconta la voglia di libertà in Europa attraverso il pensiero e le opere di 94 artisti contemporanei. Realizzata su iniziativa del Consiglio d'Europa e con il sostegno finanziario della Commissione Europea, l'esposizione è promossa in Italia dal Comune di Milano e da 24 Ore Cultura. Frutto della collaborazione internazionale di 36 Paesi membri del Consiglio stesso, rimarrà aperta fino al 2 giugno. Informazioni e biglietti sul sito desireforfreedom.it. L'altra Europa. Will you grow up to be a microbiologist, a physicist, a chemist or a paleontologist? You could be a botanist or a geologist. If you love the sciences, then be a scientist. Science is the study of the physical world. And that's good news for all you boys and girls who look up at the stars in the sky with wonder or get all excited when it rains and thunders under your skin. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'Altra Europa, facebook.com/l'altra Europa, oppure su Twitter l'account è @FedericoTaddia. Lì trovate tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Riapriamo questa seconda parte con un rap, il rap della ricerca scientifica, perché andiamo a parlare di ricerca, andiamo a mostrare una delle facce che ci piace presentare sempre dell'Europa, che è la faccia delle opportunità. Si parla di crisi, una risposta alla crisi può arrivare, deve arrivare dalla ricerca scientifica. Questi giorni è stato presentato una proposta per rendere più semplice l'accoglienza di studenti e ricercatori neo europei, perché l'Unione Europea ha bisogno di attirare studenti e ricercatori di talento non europei che grazie alle loro capacità, alle loro competenze possono portare un contributo aggiunto all'Unione. Trasferirsi in Europa per un breve periodo è un'opportunità e quindi si vuole facilitare questo ingresso, ma non solo, ci sono anche due progetti in atto molto importanti che volevamo sottolineare. Tutto questo lo facciamo insieme a Massimo Gaudina, capo unità comunicazione al Consiglio Europeo per la ricerca a Bruxelles. Buongiorno Gaudina. Sì, buongiorno. Buongiorno. La ricerca, i finanziamenti alla ricerca come forte risposta alla crisi. Intanto questa proposta per facilitare l'ingresso agli studenti e ai ricercatori non europei. Come mai? Da dove nasce questa esigenza? C'è bisogno di nuove forze? C'è bisogno di nuove teste? Diciamo che c'è bisogno di rimettere l'Europa al centro della competizione globale per i migliori talenti. Sì. In questi ultimi anni sono gli Stati Uniti e sono più recentemente altre potenze asiatiche che stanno attirando sempre di più i migliori cervelli di tutto il mondo, compresi gli europei. Quindi c'è bisogno di invertire questa tendenza, c'è bisogno di rimettere l'Europa un po' al centro di questa circolazione planetaria dei migliori talenti e si stanno attuando diverse misure in questo senso. Certo. Nel 2007 l'Unione Europea, per finanziare i migliori talenti, ha creato questo organismo che è il Consiglio Europeo per la Ricerca, che è un po' il braccio armato, mi consente questa metafora, proprio per stanziare fondi. Va benissimo. Siete presenti, insomma, è l'atto concreto, no? per essere presenti là dove bisogna essere. Come opera, come sta operando attualmente? Dunque, il Consiglio Europeo della Ricerca, o ERC, secondo l'abbreviazione inglese, è una delle componenti del settimo programma quadro dell'Unione Europea per la ricerca e sviluppo e sarà una delle componenti del nuovo programma quadro che partirà l'anno prossimo e si chiama Orizzonte 2020. Sì. Che cosa fa l'ERC, cioè il Consiglio Europeo della Ricerca? È un'agenzia dell'Unione Europea che finanzia i ricercatori di tutto il mondo, europei o non europei, perché facciano ricerca di frontiera, ricerca di base in Europa. Quindi parliamo di europei che vogliono restare in Europa, di europei che vogliamo far tornare in Europa o di ricercatori di tutto il mondo che vogliamo far venire e attirare in Europa. Quindi gli obiettivi sono due: da una parte quello di far avanzare la scienza e la ricerca, e parliamo di ricerca di base, ricerca fondamentale, e dall'altra è quella di offrire delle opportunità nuove per i ricercatori appunto di tutto il mondo, per evitare la fuga dei migliori cervelli europei dal nostro continente e per riequilibrare questi flussi di talenti fra diversi continenti. E lo facciamo con dei mezzi pesanti. Il braccio armato, come dice lei, consiste in un budget di più di 1 miliardo di euro all'anno che vanno a ricercatori di tutte le fasce e di tutte le discipline scientifiche. Perfetto, insomma, abbiamo celebrato anche noi il compleanno, i 5 anni a giugno scorso, abbiamo dato voce anche ad alcuni di questi ricercatori, perché la ricerca di base è sempre molto affascinante, a volte anche incomprensibile per noi non addetti ai lavori, ma grazie alle loro testimonianze siamo riusciti a entrare nelle loro teste, ma soprattutto nella passione che c'è dietro a chi fa queste scelte, che diventano anche scelte di vita. E, Gaudina, prima di salutarci, un altro progetto molto importante sono i bandi Marie Curie, che c'è tempo ancora, mi pare, fino a, ad agosto per fare la richiesta, se non sbaglio, sì, fino al 14 agosto. E qua invece chi può partecipare e cosa sono? I Marie Curie sono delle borse sempre per ricercatori, ci sono diversi tipi di fondi, anche qui sono soprattutto fondi per scambi di ricercatori, mobilità internazionale, quindi possibilità di andare all'estero per un periodo di ricerca con delle borse anche qui piuttosto interessanti, e è un programma più popolare perché è più diciamo in atto già da diversi anni. Okay. E va a premiare delle grandi quantità di ricercatori, mentre il Consiglio Europeo della Ricerca è più giovane, finanzia una fascia più ristretta, parliamo soltanto dei talenti, il 12% di chi fa domanda viene premiato, ma viene premiato con delle borse di 1, 2, fino a 3 milioni di euro, quindi sono due strumenti diversi, sono complementari, li possiamo definire come due stagioni diverse nel ciclo dell'anno della vita di un ricercatore. Le borse Marie Curie sono un po' la primavera, certo, della ricerca europea, mentre il Consiglio Europeo della Ricerca è considerata come l'estate, cioè l'esplosione della maturazione degli scienziati. E se ho ancora un attimo, vorrei ricordare che l'Italia si sta comportando piuttosto bene in queste competizioni, perché sono più di 300 i ricercatori italiani sui 3.500 sin qui finanziati che si sono aggiudicati delle borse, anche se non tutti poi svolgono il loro progetto di ricerca in Italia, molti lo effettuano in altri paesi dell'Unione Europea, ma comunque è importante restare in Europa, è importante rafforzare la base scientifica europea, perché è così che si favoriranno in futuro nuove applicazioni, nuove produzioni e nuovi posti di lavoro anche per ricercatori e giovani ricercatori. Erche.europa.eu, il sito per tutte le informazioni. Un grazie a Massimo Gaudina, capo unità comunicazione al Consiglio Europeo per la Ricerca a Bruxelles. Buona Pasqua Gaudina e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie, auguri anche a voi. Europost-it. Diventare cittadini europei, la sesta edizione del concorso del Movimento Europeo Italiano. Anche quest'anno le scuole di ogni parte d'Italia possono aderire al concorso del Movimento Europeo Italiano e dell'AICRE, sezione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, dedicato all'Anno Europeo dei Cittadini 2013 e al 9 maggio, Festa dell'Europa. È possibile partecipare singolarmente, in gruppi e anche come istituto, presentando un articolo, un saggio breve, un manifesto o un video sulla cittadinanza europea entro il 19 aprile. Per scaricare il bando e conoscere le tracce, collegatevi al sito aicre.it/concorso-diventare-cittadini-europei. One day, un giorno, saremo tutti in pace. Mattia Shaou è un cantante, un rapper di musica reggae, rock, hip hop, nato da una famiglia ebrea ortodossa, viene considerato l'inventore del connubio tra musica reggae e la cultura ebraica. E abbiamo scelto questo brano per introdurre il prossimo ospite. Sono giorni di Pasqua, sono giorni dove si è riflettuto molto anche a livello europeo sui temi religiosi, l'arrivo del nuovo Papa ha aperto nuove riflessioni, nuovi confronti, tante dichiarazioni dei capi di governo, i credenti e i non credenti, i cattolici ma anche gli appartenenti alle altre religioni, insomma un'occasione di confronto. Quindi in questo clima ci piaceva fare un viaggio, ci piaceva intraprendere anche noi un po' la strada della riflessione e abbiamo deciso di fare questo viaggio insieme a una fotoreporter e una giornalista, fotografa polacca che vive in Italia da diversi anni ed è autrice di un bellissimo libro intitolato Genti di Dio, viaggio nell'altra Europa. Diamo il benvenuto a Monica Bulai. Ciao Monica. Ciao. Ciao. Buongiorno. Il tuo è un viaggio particolare, è un viaggio che hai fatto come piace a te viaggiare, cioè perdersi, cioè guardare poi il mondo e raccontare gli incontri attraverso l'occhio della macchina fotografica. Che viaggio hai fatto per andare a scoprire appunto le genti di Dio nell'altra Europa? È un viaggio molto lungo, perché l'ho iniziato quando avevo 19 anni. Ho cominciato a piedi, ho cominciato a camminare sul confine del mio paese, la Polonia, dal sud al nord, l'inverno, attraverso i boschi, talvolta prendendo passaggio da qualcuno su un carro con cavallo oppure con un vecchio pullman, e cercando l'ospitalità nei villaggi delle minoranze che abitavano e tuttora abitano là. E questo viaggio mi ha portato a fare le ricerche sulle minoranze, sia in Polonia sia in tutta la parte orientale, dal Baltico fino al Mar Caspio, fino all'Adriatico, anche in Russia, in qualche modo per raccontare, attraverso questa esperienza molto diretta, molto personale anche, le storie delle popolazioni che vivono nell'ombra della storia con la grande S, ne sono anche le vittime. Ho cercato raccontare e collegare anche il destino delle persone attraverso le ricerche molto, molto lunghe. È un viaggio che ha durato quasi 20 anni, ovviamente anche intrecciato con la vita, che mi ha portato fino a Israele per cercare a ricostruire le storie che in qualche modo si sono interrotte in modo drammatico, terribile, nel villaggio da dove viene la mia nonna. Mm-hmm. Nel villaggio che io dovevo sempre avvertito un silenzio insopportabile, intollerabile, e anche lo spazio che in qualche modo non era adattato alle presenze vere, perché c'era qualcosa di non risolto. Mm-hmm. Monica, noi in questo programma parliamo di Europa. Tu hai raccontato un viaggio, come hai messo anche nel titolo, nell'altra Europa, quindi abbiamo anche questa assonanza di titolo. Altra Europa, altre genti, altre religioni. Ma è stato un percorso di unione o un percorso di divisione? Cioè quello che hai visto tu, hai visto tante storie disunite, frammentate, o comunque hai trovato dei fili conduttori? È un lavoro che si svolge fisicamente sui confini, non sulle zone di frontiera, quelle che dividono, ma sulle zone di mescolanza, dove vivono le persone che anche hanno certa difficoltà di definirsi. E talvolta quando le chiedo chi sono, mi dicono che noi siamo la gente di qui, anche se non hanno perso la loro identità. Sì. Per esempio in Bielorussia ho lavorato sui tatari, che sono discendenti di nipoti, si può dire, di Chingis Khan, e che fino a oggi hanno delle straordinarie tradizioni, nelle quali cercano di utilizzare la saggezza della gente che abitava questa terra al di là di chi fossero. Per esempio ci sono nelle loro tradizioni alcuni riti profondamente ebraici, quindi delle persone che non ci sono più là, però loro hanno avuto questa saggezza di prenderlo dal vicino di casa, come si prende il sale, il pane, il prestito, no? E portare nella loro tradizione. Soprattutto le preghiere legate alla sepoltura dei testi sacri, le preghiere ai morti anche. Quindi è un lavoro che in qualche modo svela questa capacità di vedere la bellezza, ma anche l'appartenenza comune che abbiamo disimparato a vedere e che esisteva anche nelle altre zone dell'Europa, ma anche fuori, nel bacino mediterraneo, esisteva nel Nord Africa. Esisteva in Marocco, dove i pellegrini, sia ebrei sia musulmani, andavano a pregare dello stesso santo, perché il buon santo, loro lo sapevano, è buono per tutti. Certo. Dei luoghi come in Egitto, dove ho lavorato, dopo aver portato questa ricerca altrove, dove i beduini vanno dai santi, dai abunà copti, per chiedere la benedizione, anche valida, no? Mm-hmm. Quindi questo lavoro che parte dal mio paese, la Polonia, che ha portato dopo in Bielorussia, in Lituania, in Lettonia, in Russia, in Romania, in Albania, in Turchia europea, in tanti altri paesi del cosiddetto est, in qualche modo è stato una base anche di un laboratorio di ricerca dove ho capito come guardare un altro mondo, ma anche quelle guerre in corso. L'altra Europa. MonicaBulai.com è il sito per conoscere il lavoro di Monica. Abbiamo pubblicato un po' di materiale già sulle nostre pagine in Facebook, facebook.com/l'altra Europa, un libro da leggere, un libro da guardare, una mostra anche che accompagna questo viaggio, questo reportage, Genti di Dio, viaggio nell'altra Europa, edito da Frassinelli Editore. Monica, prima di salutarci, ci vuoi lasciare con una foto che più delle altre magari sintetizza meglio il tuo lavoro o alla quale sei particolarmente affezionata? Sì, per esempio quella dei bambini romi che galoppano il maiale. Sì? Che li ho trovati in Romania cercando le comunità dei vecchi credenti, quindi tutta un'altra storia. All'improvviso ho incontrato un bellissimo villaggio dove questi bambini giocavano in modo favoloso con questo animale. Dopo sono usciti da tutte le case gli uomini con grandi cavalli e si sono messi tutti belli tirati per farsi fotografare. Ecco, una bellissima immagine. Grazie davvero Monica, complimenti intanto per questo bel lavoro. So che adesso sei impegnata sempre sul fronte afghano, quindi in bocca al lupo anche per questa attività. Ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime puntate dell'Alta Europa. Ciao e buona Pasqua. Grazie, ciao. So put me down, punk. Wouldn't you prefer a maiden fair? Isn't there a kitten stuck up a tree somewhere? I am not an angry girl, but it seems like I've got everyone fooled. Every time I say something they fall. Un paio di settimane fa, era il 12 marzo, un paio di settimane abbondanti, i parlamentari europei hanno votato una risoluzione non vincolante sull'eliminazione degli stereotipi di genere in tutti i paesi dell'Unione. Una risoluzione in cui si dice che corrono nuove politiche all'interno dell'Unione per affrontare gli stereotipi di genere nei settori dell'istruzione, dei mezzi dell'informazione e della pubblicità, nel mercato del lavoro e soprattutto nel processo decisionale, economico e politico. Volevamo capire qual era la situazione in Europa e se questa direttiva, benché non vincolante, potrà cambiare le cose. E quindi nel fare la nostra ricerca siamo incappati invece in un ottimo progetto europeo in atto qui in Italia, intitolato Non pensare a sesso unico, finanziato dall'Unione Europea, portato avanti in questi anni in Italia e in Ungheria da Arcidonna, specialmente nelle scuole. Proprio Arcidonna è in prima linea per promuovere questi progetti con lo scopo di combattere la diffusione degli stereotipi, e lo fa attraverso l'educazione. Con noi c'è la presidente di Arcidonna, diamo il benvenuto a Valeria Ajova Lasit. Ciao Valeria, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno anche a voi. Che cosa sono gli stereotipi di genere oggi? Cosa va cancellato? Cosa va cambiato? Cosa può fare davvero l'Europa? L'Europa può fare tanto e credo che i progetti, soprattutto gli Equal, hanno funzionato molto, perché hanno dato la possibilità ad associazioni di provare, di testare dei prototipi, dei laboratori da sperimentare nelle scuole proprio per abbattere gli stereotipi, cioè modificando le distorsioni delle immagini femminili che generalmente vengono poste dai media, dalla cultura, ma anche a volte dalla stessa scuola, all'interno della società, anche nel mondo del lavoro. Quindi diventa, io credo che sia un fatto molto importante, e in tutti questi anni, insomma, Arcidonna ha sperimentato molti modelli. Dal 2002 al 2008 abbiamo toccato più di 14.500 studenti nelle scuole superiori italiane, provando a costruire dei modelli di laboratorio per sensibilizzare gli studenti e dare loro la consapevolezza di quanto è importante abbattere, eliminare quegli stereotipi che sono quelle barriere che impediscono la comunicazione e la relazione tra i generi corretta, certo. È uno dei problemi molto grossi, come sappiamo, anche in Italia. Mi pare significativo che appunto nello stesso periodo in cui il Parlamento chiede che questo venga fatto, un progetto portato avanti da voi venga anche premiato come uno dei progetti migliori all'interno dell'Unione, tanto che verrà rifinanziato. Non pensare a sesso unico, qual è il cuore del progetto? Si entra nelle scuole, si fanno vedere cose, si parla, si fanno ragionare? Sì, il cuore del progetto sono dei laboratori che costruiamo con gli studenti e le studentesse. La prima cosa importantissima è scegliere sempre un laboratorio composto da ragazzi e ragazze con lo stesso numero, cioè metà e metà. Sì. Questo è importante nella relazione. E poi abbiamo costruito tutta una serie di strumenti, ovviamente prima di tutto entriamo in aula con una sensibilizzazione in un laboratorio, partendo un po' dalle parole di parità e un poco anche dalla storia del movimento, per comprendere, per far capire quanto questo percorso è stato molto lungo. Tutto attraverso e utilizzando immagini corto, quindi utilizzando molto le immagini con i ragazzi e le ragazze. In particolare abbiamo costruito questo book fotografico che rappresenta una serie di immagini stereotipate dei ruoli maschio-femmina, ragazzo e ragazzo, e quindi attraverso le immagini aprivamo all'interno dei gruppi laboratoriali tutta una discussione molto animata tra loro, perché le immagini aiutavano moltissimi i ragazzi e le ragazze a tirar fuori davvero i problemi e quello che pensano davvero. E quindi sono stati strumenti utilissimi, così come è stato utilissimo questo glossario sulle parole di parità, perché spesso, cioè, uno dei problemi veri è che le informazioni e il sapere è un sapere molto superficiale, per cui non sempre i ragazzi e le ragazze sanno distinguere, ad esempio, la differenza tra una parola, tra l'uguaglianza e la differenza. Certo. Cioè ci sono tutta una serie di saperi e di informazioni che ai ragazzi arrivano in maniera superficiale, quindi renderli consapevoli e sensibilizzarli da questo punto di vista aiuta a prendere coscienza di sé. Uh-huh. E della differenza di sé tra maschi e femmine. E noi insistiamo molto perché pensiamo che il vero problema noi riusciremo ad abbattere non solo gli stereotipi, ma ad abbattere quel terrificante fenomeno che è la violenza, se riusciamo, ed è questo che stiamo facendo in maniera insistente, senza tregua, con i ministeri, con gli assessorati, per mettere a sistema nelle scuole italiane questi laboratori, perché se non affrontiamo con loro in maniera costante, quindi non soltanto episodica attraverso i progetti, ma costante, dalla scuola materna al liceo e all'università, costruendo una sensibilizzazione sulle politiche di genere, ma in particolare facendo cogliere loro il problema che c'è tra i ragazzi e le ragazze. Noi, dicevo prima, abbiamo toccato più di 14.500 studenti e c'è un problema, cioè le ragazze sono cambiate, il modello delle donne è cambiato profondamente, quello dei ragazzi invece no. Mm-hmm, e no. Quindi la conflittualità nella relazione tra il maschio e femmina e il femminile poi si esprime nei modi normali o nei modi poi che raggiungono quel fenomeno terrificante che è la violenza. Quindi se noi non partiamo dalla trasmissione dei saperi, dall'educazione alla sensibilizzazione tra i ragazzi e le ragazze, difficilmente riusciremo ad abbattere gli stereotipi e a costruire una relazione normale tra il maschile e il femminile. È quello che deve succedere, anche la richiesta del Parlamento europeo, quindi speriamo davvero in un qualcosa di nuovo. Grazie, buon lavoro a Valeria Avio Valasit, presidente di Arci Donna. Un grazie a tutta la squadra dell'Altra Europa, Margherita Ine, Miriam Lucchetti, che con me hanno scritto la puntata, Benedetta Acri in assistenza, Peter Bescapè in regia. Noi ci ritroviamo qua sabato prossimo, come sempre, alle 10. Fatevi vivi via Facebook e via Twitter. Ancora buon sabato e buona Pasqua da Federico Taddia. Ciao!